L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e ben ritrovati per questa puntata che va in onda proprio tra due feste, quella di Natale e quella di Capodanno, e quindi ci consente di affrontare due temi completamente diversi, uno più legato alle festività, l'altro ai bilanci di fine anno. Parliamo nella prima parte di sicurezza alimentare, visto che in questo periodo si acquistano molti alimenti per fare anche bella figura in pranzi e cene, ma magari con un po' di fretta o un po' di incompetenza, perché andiamo a comprare cibi che non finiscono spesso sulla nostra tavola. Per i bilanci di fine anno invece faremo il punto sull'industria del riciclo italiano. Sappiamo tutti che è importantissima questa transizione verso l'economia circolare, che da una parte recupera e reimmette sul mercato materiali che così non devono più essere estratti dal pianeta, e dall'altro riduce la quantità di rifiuti che restano da trattare dopo tutti i recuperi possibili. Cominciamo però dai consigli per gli acquisti alimentari. Il nostro ospite, e gli diamo il benvenuto, è Luciano Azzori, esperto in sicurezza degli alimenti e segretario dell'Ordine Nazionale dei Biologi. Già in passato è stato nostro ospite, siamo molto lieti che sia con noi anche oggi. Ben ritrovato. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Parliamo, come spesso abbiamo già fatto negli anni scorsi, di pesce, perché è un periodo in cui se ne compra tanto. Tra l'altro, lei mi diceva poco fa, gli italiani ne comprano sempre di più. Sì, si è passati dai circa 9 kg degli anni 60 a quasi 20 kg di questi anni, pro capite all'anno come consumo, il che vuol dire un raddoppio ed è un valore sicuramente ottimo. Questo a che cosa è dovuto? Al fatto che si sta diffondendo sicuramente quelle che sono le qualità legate al consumo del pesce, l'alta digeribilità, i pochi grassi, sono ricchi di omega 3, ricchi di fosforo, di iodio, e anche al fatto che in seguito agli allevamenti, all'acquacultura, stanno ottenendo sempre più specie a dei prezzi anche accessibili. Vorrei legare il prezzo alla qualità. Dobbiamo avere particolari accortezze? Diciamo che sicuramente il pesce a parità di specie, il pesce allevato costa di meno. Questo è un dato di fatto. Il pesce invece cosiddetto pescato o selvaggio costa sempre di più. E un tempo le differenze tra questi due tipi di pesce erano notevoli. Attualmente invece non è così. Anzi, spesso il pesce cosiddetto allevato è anche più fresco, perché lo stesso rivenditore lo può ordinare oggi dicendo: domani voglio 300 spigole di questa pezzatura, gli arrivano domani e sono, perché vengono prese, vengono allevate anche con delle tecniche abbastanza all'avanguardia, quindi anche le carni sono, non sono più così ricche di grassi e particolarmente differenziate dal pesce selvatico, e quindi diciamo che è anche un'ottima scelta. La differenza invece è quando il pesce costa meno. Dicono che è pescato, invece in realtà è un pesce che proviene da mari molto lontani, quindi da paesi molto lontani. Di conseguenza non potrà mai essere un indice di freschezza. Noi consumatori dobbiamo incominciare a capire, a leggere le etichette. E in questo caso io consiglio sempre, quando si fa un acquisto di pesce, è imposto dalla legge, ci deve essere così indicata nell'etichetta la cosiddetta zona FAO. Nel Mediterraneo le zone FAO sono tre fondamentalmente, il 37.1, che indica il cosiddetto Mediterraneo nazionale, cioè tutto quel mare che va dalla Liguria alla Sicilia passando per la Sardegna, la 37.2 che indica invece il Mar Ionio e il Mar Adriatico. Ecco, quando io vedo il 37.1, 37.2, so che è sicuramente pesce nostro, quindi sicuramente fresco. Effettivamente in giro ogni tanto si trovano proprio queste mappe un po' più dettagliate, magari nei supermercati dove c'è più spazio, per altrimenti si chiede, no? Perché comunque anche al banco del pesce si può chiedere la provenienza se non si riesce a decifrare il codice. Ma tutti abbiamo uno smartphone, tutti siamo collegati a internet, ci si sta un minuto per sapere quel codice, quel numero, a quale zona, a quale mare appartiene. Dunque, poi dopo veniamo alle caratteristiche del pesce, no? Che ovviamente ha odore, colore, ha insomma un'apparenza. Che cosa dobbiamo guardare se non siamo esperti come molti? Prima di tutto odore o colore, se il pesce è fresco. Prima scelta dobbiamo decidere se prendere un pesce decongelato, che è stato precedentemente surgelato e poi durante la vendita ci viene scongelato, oppure un pesce fresco. Nel secondo caso dobbiamo controllare in maniera tutti i valori, alcuni parametri, quali il colore, l'odore, l'occhio, il corpo, E valutarli in maniera simultanea, cioè prenderli tutti assieme sotto il nostro analisi. Il colore deve essere brillante, un colore, io dico sempre, vivo. La pelle deve essere tesa e se il pesce è dotato di squame, queste devono essere sempre ben aderenti alla pelle. L'odore deve essere quello che viene detto in maniera molto semplicistica, odore di mare, che tradotto vuol dire odore di salsedine, di alghe o di iodio. Assolutamente non deve mai avere odore di ammoniaca, che indica un principio di decomposizione del pesce, e ancor peggio odore di cloro. Questo è negativo perché è un trucchetto che fanno alcuni rivenditori, immergono il pesce che sta iniziando a invecchiare in acqua con del cloro, perché il cloro nasconde e copre alcuni odori. L'occhio deve essere lucido, vivido, e deve essere estroffeso, cioè bombato verso l'esterno, mai verso l'interno, che indica quindi disidratato, incavato, indica pesce veramente vecchio. Il corpo non lo fanno giustamente per un fatto igienico toccare i rivenditori, però lo si può chiedere, come faccio sempre io, lo faccia lei al posto mio, al rivenditore. Dico di, con un dito, con l'indice, premere un po' la carne e di sollevarlo immediatamente. Se la carne, il muscolo si risolleva in maniera elastica, rapidamente, sicuramente è fresco. Se invece rimane incavato o si solleva molto lentamente, non è fresco. Altra caratteristica, sempre il corpo, prendere il pesce per la testa, tenerlo con una sola mano e vedere se il resto del corpo si piega verso il pavimento. Se si piega completamente vuol dire che il pesce o è decongelato o non è fresco. Una rigidità, quindi ancora consistente. Ancora. Rimane, quindi si può flettere leggermente la coda, seguire la forza di gravità, ma non tutto il corpo. Questi sono dei parametri molto molto semplici da seguire, che è difficile che possano i rivenditori, diciamo, camuffare, cambiare, modificare, frodare. Altri invece ci riescono benissimo. Alcuni trucchi, appunto, ce li diceva prima, quindi fare attenzione all'odore di cloro, ad esempio, appunto, perché ovviamente stiamo parlando di frodi sanitarie, è l'uso del monossido di carbonio, che è un gas, oppure anche dei nitrati, che sono dei coloranti non ammessi nei pesci, ammessi nelle carni, che ad esempio vengono molto usati nel tonno. Noi abbiamo di tonno fondamentalmente due specie che sono molto ambite nei mercati. Uno è il tonno pinne gialle, che è quello più commerciale, che ha una carne un color rosa, e poi c'è il tonno rosso invece, che è molto più pregiato e ha un valore maggiore. Molti rivenditori trattano le carni del tonno pinne gialle per far diventare rosso vivo e poi dichiararle e venderle a prezzo maggiore, ovvio, per tonno rosso. In realtà questo è molto pericoloso, a parte la frode proprio anche commerciale che ci stanno prendendo in giro dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista salutistico, perché l'uso del monossido di carbonio produce, determina la crescita nella carne dell'istamina. L'istamina è un composto chimico che, quando si forma nel pesce, crea nell'uomo una forma di intossicazione anche grave, si può essere anche ricoverati, e non viene distrutta dalle alte temperature, quindi cucinare il pesce non serve a niente contro l'istamina. I nitrati invece, nel lungo periodo, accumulati con tanti altri consumi che noi ne facciamo, perché li troviamo un po' nell'acqua minerale, un po' in alcuni ortaggi a foglia verde, si accumulano nel nostro corpo e possono determinare la formazione di nitrosamine, sostanze cancerogene. Quindi evitare sempre il tonno con le carni rosso ciliegia, un rosso spinto, un rosso non naturale. Non facciamoci ingannare. Altro trucco, ecco, sì. È ancora più comune, nei totani, nelle seppie, nei calamari, tutti noi li vogliamo il classico bianco candeggiante. Poi il colore è innaturale. Quelle carni devono essere sì morbide, sì, tutto quello che vogliamo, ma un color bianco panna, cioè non così pulito che sembra un foglio da stampante A4. Viene in quel caso, si usa l'acqua ossigenata. Questa è anche una frode difficile da riconoscere, perché l'acqua ossigenata, una volta usata, si trasforma in acqua e non si può chimicamente determinare l'uso e quindi condannare il truffatore. È lì solo una questione ottica, cioè lo si fa per, diciamo, far sembrare il prodotto più fresco, non per conservare. Noi consumatori abbiamo una pessima abitudine: prima mangiamo con gli occhi, poi con l'olfatto e successivamente col sapore. Invece dobbiamo incominciare a mangiare soprattutto con la testa. E questo è importantissimo. Allora, abbiamo detto dei pesci, adesso siamo arrivati ai totani, poi ci sono, c'è il capitolo crostacei e molluschi, che anche lì vanno tantissimo in questo periodo e anche lì bisogna avere molte accortezze, si rischia anche, insomma, no? con questi. Quindi, sì. Beh, allora, i crostacei tipo granchi, aragoste, astici, gamberi o sono venduti surgelati o sono venduti vivi. Per vedere se sono vivi basta, basta dare piccole sollecitazioni, vediamo che muovono una chela, un'antenna, una zampa. Quelli invece che ci vengono dati venduti per freschi, in realtà poi sono morti, basta tirare leggermente gli appendici, tipo una zampa. Se si staccano facilmente sono decongelati, hanno voglia di dirci no, è fresco. Non è vero. Altra cosa sono i gamberi, gamberoni. Noi tutti consumatori pensiamo che quando vediamo la parte della testa imbrunire, quella specie di color prossimo al nero, pensiamo che non siano freschi. Invece è il paradosso, in quel caso lì sono freschi perché non sono stati pescati e messi subito in commercio. Altre volte invece vengono pescati, trattati con conservanti ammessi per legge, tipo i solfiti, i solfati, e qui apro una parentesi, moltissime persone sono allergiche a questi composti chimici, e poi messi in commercio. E uno dice, ah, questo è fresco perché non ha la parte iniziale del carapace, della testa, insomma, color bruno. Invece l'opposto, quello è stato o trattato o sicuramente surgelato. Poi, per quanto riguarda i molluschi. Palopodi, tipo polpi, seppie, calamari, totani, il corpo deve essere lucente perché generalmente quello fresco è rivestito da una sottilissima strato di muco e che lo rende anche un po' viscido al tatto. Una caratteristica che io, ad esempio, quando posso faccio subito, appoggio un dito nelle ventose. Se le ventose hanno ancora potere adesivo, vuol dire che è fresco. Uh-huh. Questa è un'altra caratteristica. Poi, per quanto riguarda i molluschi invece bivalvi, parliamo di cozze, vongole, ostriche, devono essere assolutamente vivi, e questo lo riconosciamo perché una volta comprati e messi in una bacinella o nella pentola, quelli, diciamo, quelli non vivi tendono a galleggiare. Qui io do un consiglio: evitare il più possibile il consumo di mitili crudi. Il limone, non è vero che è un ottimo, le gocce, due o tre gocce di limone non disinfettano, ma neanche la carezzano, è diverso. E tantomeno quelle dicerie, le bianche sono più sicure delle rosse, no, non sono più sicure le rosse, sono tutte fesserie. L'unica sicurezza è che siano state comprate nei canali ufficiali, e quindi stabulate, controllate e tutto, e che non ci sia stato che non si sia verificato l'intoppo, tutto qui. Se sì, no, quindi se non abbiamo chiara questa catena, meglio cotti. Sì, assolutamente. Non pescarli di persona o fidarsi dell'amico pescatore o di quello che lo vende in maniera non regolare, perché anche se ti dice l'ho pescato in un'acqua limpida, nessuno può dire se quell'acqua limpida aveva una contaminazione fecale. Questo si può fare solo attraverso analisi chimiche, che nessuno di noi con gli organi di senso riesce a fare. Grazie ancora una volta Luciano Azzori per essere stato con noi. Grazie a lei e grazie a tutti gli ascoltatori. Come dicevamo, esperto in sicurezza degli alimenti e segretario dell'Ordine Nazionale dei Biologi, facciamo una piccola pausa e poi torniamo insieme. Radio24.it è sempre con te, anche in viaggio. Consulta la mappa del traffico aggiornata in tempo reale. Potrai conoscere la viabilità del luogo in cui ti trovi e avere tutte le info su code, cantieri e altre criticità. Clicca su Mappa e scopri il nuovo servizio su radio24.it. Radio 24, la passione si sente anche in viaggio. L'altro pianeta. Ancora ben ritrovati da Laura Bettini. In questa seconda parte dell'altro pianeta passiamo all'economia circolare che cresce. Ne parliamo a partire dallo studio L'Italia del riciclo, promosso e realizzato annualmente da Fise Unire, che è l'associazione di Confindustria che rappresenta le aziende del recupero rifiuti, e dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile. L'industria del riciclo è un pilastro dell'economia circolare e continua a crescere nel comparto degli imballaggi, in quello dei RAE, in quello della gestione della frazione organica e degli pneumatici, ma ovviamente ha alcune criticità e difficoltà che abbiamo affrontato con Anselmo Calò, che è il presidente di Unire. Diciamo che il quadro è positivo. Allora, innanzitutto bisogna tener conto che la nostra attività, il recupero, è anche una funzione della raccolta differenziata. Quindi quando aumenta la raccolta differenziata abbiamo più rifiuti da poter trarre, materiali da riciclare e anche da mandare a recupero energetico. Quindi il presupposto del buon funzionamento è una raccolta differenziata adeguata. Quindi questo è il punto, va bene, fondamentale, perché altrimenti non c'è poi questo dopo. Questo è il punto di partenza, esatto. E quindi, quella la stiamo facendo discretamente, diciamo, allora, c'è un miglioramento? La raccolta differenziata naturalmente non è omogenea su tutto il territorio, in certi territori del nord è molto avanzata, in alcuni territori del sud abbiamo buone performance, però generalmente più si scende e meno è efficace. Cioè, più si scende dal nord verso sud e meno è efficace. Ok, e questo ovviamente pregiudica poi dopo tutto quello che a catena nasce questo da una buona raccolta. Questo significa per esempio che gli impianti sono maggiormente localizzati al nord perché ci sono maggiore quantità di materiali al nord, quindi è evidente dove ci sono materiali si creano gli impianti di trattamento, quindi anche questo significa che scendendo da nord verso sud abbiamo meno impianti perché c'è meno materiale. Anche perché uno degli elementi fondamentali è quello di mettere gli impianti vicino a dove ci sono i rifiuti, anche per evitare, cioè, i famosi chilometri zero. E quindi questo implica poi ovviamente anche che non essendoci impianti non ci sono posti di lavoro, no? Quindi non si crea quel meccanismo virtuoso. Non c'è niente di più new economy della green economy. Sì. Nel senso che tutto quello che di fatti le nostre imprese, nonostante la crisi dell'ultimo, ormai siamo quasi a 10 anni di crisi, nonostante questo le nostre imprese sono tutte cresciute, anche se devo segnalare che ci sono due elementi di difficoltà che stanno emergendo negli ultimi 2 anni, che sono il calo di valore delle materie prime. Questo la volevo ecco, portare su questo allora, punto. Sì. Il calo di valore delle materie prime può diventare un problema per esempio per la plastica. Lei sa che la plastica vergine viene dal petrolio, un petrolio che costa poco fa sì che le materie vergini costino poco e che le materie riciclate non possano più competere, perché una materia riciclata è sicuramente di un livello minore rispetto alla materia vergine, ma se poi costa anche di più è chiaro che non c'è molto interesse a utilizzarlo. In questo una novità interessante è quello di fare le plastiche non più solo di vergine, ma di vergine con una parte di riciclato. Sì. Questa è una nuova tecnica che molte imprese stanno utilizzando, cioè quello di fare materiali plastici con 80% di vergine e 20% di riciclato. E questa è un'ottima cosa perché ci consente di avere materiali di buona fattura anche utilizzando il riciclato. L'altro problema che diceva, due elementi stanno emergendo, uno è il prezzo delle materie e l'altro? Sì, e l'altro invece sono i rottami. Che è il vero problema della siderurgia, ormai lo sanno tutti, noi in Italia abbiamo in tutta Europa abbiamo un grosso problema della siderurgia, gli impianti siderurgici stanno chiudendo in Italia, in Francia, in Spagna, quindi c'è un problema grosso sulla siderurgia perché la siderurgia cinese e indiana hanno maggiori performance della nostra, riescono a produrre a prezzi più bassi e portano in Europa i loro prodotti, per cui le nostre industrie siderurgiche non ce la fanno a contrastare. E questo però dovrebbe innescare. Questo crea problemi a, per esempio, i veicoli a motore o i RAE, che sono fatti di materiali metallici. L'attività che viene svolta dovrebbe essere ripagata dal valore del rottame che viene tratto dal trattamento di questi materiali, e che invece se il valore è troppo basso il costo non può essere sostenuto. Questo è un po' un problema, nel senso che se questa crisi permane credo che bisognerà pensare un'azione più forte anche da parte diciamo degli organi istituzionali. Infatti, per ora però teniamo ancora. Però appunto per avere un cerchio completo, no, di economia, forse bisognerebbe cominciare a pensare a livello europeo di intervenire anche su questo, cioè, perché altrimenti non si chiude e quindi non c'è l'incentivo. Allora, lei sa che è stata già c'è in circolazione il primo draft della nuova direttiva europea proprio sull'economia circolare. È un documento che probabilmente sarà approvato alla fine del 2017, quindi ci abbiamo davanti tutto il 2016 e tutto il 2017 per cominciare a pensare, ma è evidente che un'economia circolare può essere instaurata a livello comunitario solo se si tengono presenti queste difficoltà, perché altrimenti corriamo il rischio di inventare, di costituire un'economia circolare che non sta in piedi. Io penso che questo problema delle materie prime, sia del siderurgiche sia del petrolio, deve essere posto in attenzione della Commissione europea, perché affinché le nuove direttive ne tengano conto e che si prendano le misure necessarie. Sì, anche alla luce, no, di tutti poi gli accordi che abbiamo fatto adesso, non ultimo quello del clima, cioè bisogna cercare di ridurre, no, i consumi della terra per a vantaggio del riutilizzo di quello che abbiamo già estratto. Però, potrebbe essere una via anche quella. Che deve essere sostenuto il riciclo eventualmente anche in maniera istituzionale, non più soltanto affidato all'attività dei privati. Però voglio dire, abbiamo di fronte questa sfida, abbiamo del tempo per ragionarci e confrontarci anche con gli altri paesi europei avanzati come il nostro. Senta, nel sistema italiano, adesso poi lasciamo un attimo l'Europa da parte, abbiamo segnalato, lei mi segnalava prima la differenza nord-sud di impianti, di tipi di raccolta, sì, eccetera, eccetera. Sulla raccolta differenziata. Esatto, sulla raccolta differenziata, altre questioni prettamente italiane che magari vengono fuori dal rapporto, problemi specifici. No, innanzitutto dobbiamo dire che sulla raccolta dei materiali, sul riciclo, noi siamo in posizione abbastanza avanzata in Europa. Presidente della Commissione Ambiente della Camera, l'onorevole Realacci, ci ha ricordato che in Italia vengono recuperati dai materiali 24 milioni di tonnellate di materiali contro il 23 milioni della Germania, che però ha 20 milioni di abitanti di più. Sì. Quindi questo significa che, insomma, noi, questo dipende anche dal fatto che noi non abbiamo giacimenti di materie prime, per cui le nostre materie prime sono le nostre materie seconde, nel senso che questo ci induce, ma da sempre, noi abbiamo sempre, siamo sempre stati molto attenti al recupero di materiali. La sfida sta nel recuperare anche i materiali nuovi, come le plastiche, come il legno, cose che prima non venivano. Non c'era attenzione, prima c'era attenzione soprattutto sui rottami oppure sulla carta, adesso c'è attenzione anche sui materiali nuovi come la plastica, come il legno. Io le volevo anche fare un ragionamento su l'export e import. Questo, molto importante. Questo rapporto per la prima volta fa focus anche sull'import e export di rifiuti del nostro sistema, a partire dai MUD, cioè le denunce sui rifiuti trattati dalle imprese. Grazie a un accurato lavoro fatto da EcoCerved, la banca dati delle camere di commercio che analizza ogni anno i MUD, abbiamo potuto constatare che l'Italia è un grosso importatore di rifiuti. Però il 77% di questi rifiuti sono rifiuti siderurgici, ferrosi o non ferrosi. Quindi se noi depuriamo da questo dato, in realtà noi non siamo così tanto importatori di rifiuti, perché se il 77% è dato da questi qui, significa che ne rimane il 23%. Sì. Di contro, se a una prima lettura un po' superficiale sembrerebbe che noi siamo più importatori di rifiuti che esportatori di rifiuti, se depuriamo l'importazione dai rifiuti siderurgici si vede invece che siamo più esportatori di rifiuti che importatori di rifiuti. Ora, i siderurgici, diciamo la verità, non è new economy, no. È green economy, ma non è new economy, perché è una cosa che in Italia si è sempre fatto, di importare rottami per la nostra siderurgia. La new economy è appunto trattare i rifiuti come il vetro, come la plastica, come il legno, anche la carta, che diciamo potevano anche essere prima trattati come rifiuti da mettere in discarica. E quindi, ecco. Questo significa che se andiamo a vedere quali sono i rifiuti invece esportati, quasi il 70% dei rifiuti esportati sono rifiuti trattati e poi esportati. Quindi significa che c'è un primo trattamento in Italia di questi rifiuti e poi la seconda parte del trattamento, quindi la reimmissione nella circular economy, avviene all'estero. Questo significa che non siamo ancora in grado di chiudere il cerchio per questa porzione di rifiuti che esportiamo. Significa che ci mancano impianti. E qui c'è la spiegazione perché ci mancano impianti, è secondo me abbastanza semplice. Noi abbiamo un quadro normativo che non è stabile. Il codice dell'ambiente del 2006, in questi 10 anni, è stato cambiato non so quante volte. Ci sono state innovazioni legislative continue. Gli imprenditori, non avendo un quadro stabile normativo, sono un po' restii a fare investimenti, vorrebbero avere maggiore tranquillità su quello che vanno ad investire nella prospettiva degli impianti che vanno a realizzare, altrimenti si corre il rischio di fare degli impianti che oggi partono, fra un anno sono pronti, ma il quadro normativo è cambiato e non sono in regola. Ed era Anselmo Calò, presidente di Unire, ricordo che è l'associazione di Confindustria che rappresenta le aziende del recupero rifiuti. Grazie a tutti voi per essere stati con noi. Di nuovo auguri di buone feste. Ci ritroviamo la prossima settimana alla stessa ora. Da Laura Bettini, un buon proseguimento d'ascolto su Radio 24.